di campagna, mamma mia, come sto. Ehi, se la più voluto fare, noi la da oggi che la più va. Vabbè, anche lì, ma non ci metto lingua un'altra lì, ma porca puttana, ma come ci fai? Una vita che hai abitato lì, che hai assistito a tua madre, a tuo padre, a rapini, come ti dici, neghisci, ma la fai per il culo e via, ma per favore. Buonasera, ma ragazzi, un controllo radio, grazie, ciao Claudio, ciao Mattarino e ciao anche a Mario. Bra, stai rimbombando, abbassa un po' che è troppo rimbombante quella radio. Troppo forte? Sì, è troppo rimbombante. Beh, dentro una chieccia. Aspetta, guarda adesso se va meglio, 1, 2, 3, 4. Insomma, meglio di prima. E allora l'abbasso ancora, guarda un po', 1, 2, 3. Là c'è la così che forse va bene, Napoli. Infatti, manco di si comprendia che era troppo ribombante questa radio, va bene così. E vabbè, la posso abbassare ancora, No, già va bene ancora, già va bene l'amplificazione e tutto, già è chiara adesso. Va bene, ciao Claudio. Ciao Franco, Franco Franco, buonasera, ben ascoltato. Kappa. Vabbè, è uscito comunque anche lì. Purtroppo in Italia è così. Vabbè. E così, e basta, non c'è niente da fare. Vediamo un po', Giulio, sei rientrato, Giulio? No, hanno chiamato giù sicuramente. Vai Natalia. Ciò, le stazionarie è troppo alte, dai. Vi ascolto, temo di bruciare l'apparecchio. Ma non ce l'hai più quell'accordatore? No, se no l'avrei messo. C'avevi l'accordatore dell'MFG, bellissimo. Non ce l'hai più? No, se l'avevi avuto l'avevi busto. Non c'ero. Purtroppo l'ho dato. Un accordatore bisogna sempre tenerlo. Io uno l'ho tenuto, ne avevo due, ho dato l'altro 230, ma ci sono tenuto l'altro 230. Bisogna sempre tenere un accordatore, io non ho mai avuto problemi, assolutamente. Però bisogna sempre averlo, non si sa mai che tocca ad usarlo. Vai Franco. Iglia. E si conferma che così scappa. Mi ascoltate bene adesso? Sì. Ok, va bene. 5910 sì, l'acqua. E come mai 5910? Troppo basso sono. Aspetta che era attenuato. Fai un passaggio. È attenuato, sì, però ci siamo 920. 920, sì, era attenuato, stavo usando l'altra radio, dai. Vabbè, qualcosa l'ho preso perché sto andando con la mantova, la Smart Tech l'ho smontata domani mattina, infatti anche a ieri. Quindi sto andando con la mantova, però già sta andando bene, dai, non c'è problema. 920 va bene. Sto arrivando benissimo qua. Avanti Mario. Grazie, ma io sono in ascolto, comunque. Mario, California da questa parte, zona modulazione, Sierra, Sassari. Scappa, California, io sai che ero California 2 quando modulavo da Bologna, ma si parla del 74, 75, 76 volte, quindi diciamo che siamo un po' come va bene, avanti pure, continuate con te. Ok, vai Claudio. Gappa, va bene. Franco California, anzi imbarriata leva di grande ne ho fatto stanotte un'altra passata, infatti mi sono chiuso tutti i sportelloni, se no mi fa troppa condensa, se c'è troppo caldo dentro fuori bisogna avere 6 gradi. È freddo forte, cioè. Ero ali punti da mia sorella, gatta a pranzo, ma me ne sono salito poco fa, ma c'era un freddo allucinante. No, troppo freddo c'è stare in giro. Non fa che è come a domo, e domani pure l'altro tempo brutto, a quanto ho capito. Domani guarda l'aria, ma pesci. Martedì solo c'è un po' di sole, poi mercoledì, e poi da giovedì di nuovo piugge. Mi fa, forse avvisi pure i biati, ma futta sempre, intanto. Non si può fare fai niente con questo tempo, non ti fa fare nulla. Se siete in campagna da mangiare il cane, e poi me ne sono salito, troppo freddo, no, non fa. Adesso domani scendo e me lo porto su a casa. Portatelo su col cane, c'è troppo freddo, io il mio è sempre ventilo, sto uscendo poco anche fuori, è sempre coperto, bello col plaid. Capito, è un casino, non fa tenerlo fuori. Domani mattina scendo e me lo porto su, lo lavo tutto bene e poi me lo porto a casa. E infatti, fai così perché no, se no è un casino, lui si ammala, capito? Si ammala, già Filippo soffre di mal di schiena, è già grandetto, quindi noi lo teniamo molto al caldo. Molto. Lasciarlo così in campagna da solo non fa. Infatti quando c'è tempo brutto esce, fa la pipì e se ne rientra subito dentro e si sdraia nella sua cuccia che c'è il plaid e rimane lì tutta la sera. Avai cucato in chiuso con la televisione. Col plaid si vede solo Luca a bubare un orso. E infatti, no, me lo porto su, rimane all'andito, al caldo, c'è la stufa. C'è la stufa a pellet, c'è l'altra stufa a zibro in cucina, quindi già c'è caldo qua. Adesso c'è la stufa a pellet accesa a 22 gradi, quindi già, qua si sta bene, dai. Attenzione, io vengo in California, senti qua, vita mia, che è, fratello mio, che è, vita mia, che è. Ciao Luca, buonasera. Ah, già mi ascolti allora? Con antenna di gomma ti ascolto sempre. Che bello. E anche qua ci sono 20 gradi, dai, la 25. Ci sta bene, però in cameretta c'è freschetto. Qua, quando arriva qua il caldo, ce ne vogliono ore. Io mi sono fuggito alla campagna, con un'umidità allucinante, un freddo, che è? Che frega, che è? Aspetta un attimo, sta chiamando l'aria, fra. Ciao, Gabriele. Che è, ma Franco? Che è, Claudio, che è? Che è? Claudio. Lugariello, capagabba. Mi hanno regalato un portatile, Luca, un Acer. Aspetta un attimo, fra. Nadalino. C'ho le stazionarie alte. Con l'antenna un casino quando piove, Mi salgo le stazionarie, vanno a giubbocchi. Quando mi stazioni a più di lui, Ho capito. Quando sono così è un casino, Io c'ho una boomerang che va da Dio. Funziona benissimo. La verità non so se devo stazionare, lo dovrei misurare. Ma sicuramente non ne ho. Io vi raggiungo a te, se ce l'ho giù in campagna la boomerang. Va bene, poi l'ho messa qua in terrazza. Se l'avessi messa sul tetto, guai. Avrebbe funzionato meglio, ma comunque. Non si può. Cioè si può, però pensa dall'altra parte ci vuole un bel po' di capo, fa un po' di giri e secondo me non rende. No, a rendere già rende. No, già vanno bene quelle antenne, funzionano benissimo. Ma con un po' di capo non rendono. Questo non te lo so dire. Io l'avevo messa provata in campagna e funzionava bene. Chi è chi era? Riprendete un attimino che sono andato qua un attimo in camera a prendere un paio di scarpe che domani me le devo incollare. Riprendi Natali. Mi pare mi piglio una boomerang, mi pare. Cla, cosa ne dici? Che cazzo, vabbè, io vi raggio la boomerang, so che piazza. Ah, io penso una boomerang, e si la lampo, mi sa antenna. Guarda che funziona bene come antenna la boomerang. Poi c'ho un arringo, te la vuoi piazzare l'arringo? A piazzarmi l'arringo mi pongo un dipolo e mi sento un dipolo, mi E se no piazziamo la canna da pesca? La canna da pesca la devo ordinare appena mi ricaricano la carta. E in campagna là, quindi, tutti i capi, tutta la cosa di urlato, ma tanto di la vedda di stante. Non avevo la canna da pesca l'acqua. Io me l'ho fatta così e funzionava, giro di parata pure la vacone funzionava. Ma io ce l'ho lo stesso, ce l'ho in campagna, in garage. E come ti hai fatto a pizzazzina? Da un dire. Con un camper. Caragabè, col camper, capito? Non lo so, ce l'ha voi. Ti puoi piazzare a quello, non c'è problema. Perché non ne hai stufato un'altra lì? Come? Ho detto, non ne hai stufato perché? Sì che ce l'ho qua. Bene, allora va. E cos'è che portate in campagna, fra? lanterna, con la canna da pesca autocostruita, quello di, con l'anterna tipo Game Master. Ah, io ho capito, ho capito. Vabbè, cambiato radio, adesso sto andando col 430, volevo fare col 140. Ma io qua non è piatto, qua, che c'è troppo vento, è un casino con l'antenna montarla qua. Ehi, figurati in occhi. No. Io sto benissimo con questa, alla grande, adesso aspetto che me la rimandi, perché io l'ho questa domani fa, va via, adesso sono con la Mantova, ma già funziona bene la mia Mantova. La nuova è anche più alta, solo che quella là guadagna di più. Esce bene, la Mantova C con la bella antenna, là. Lascia stare, no? Non va a paragonare a nessun tipo di antenne. No, io voglio la Mantova 1, no, la Mantova 5. E meglio ancora, la 1 è meglio della 5. E più si mantiene. Mantova 1, 1, 1, 1, 1. Natali, tu virai in campagna nuova nuova, no? Non ho capito perché, boh. Perché non me la scende dalla monti lì? Prova a partita, si vira vai. La monta da 5. Io dico cazzo, non andare a finirla, ma si vira mezz'aria, te la capisci? Ah, può mettere fra lì che c'è il radiale, lui ha bisogno che l'antenna cerca radiali. No, la può mettere la mantova lì. Se la mette sul tetto va bene, ma siccome sul tetto non ne fanno mettere, lui ha bisogno di una Game Master o un'antenna tipo quella mia, un'antenna senza radiali. Eh beh, quello sì, quello sì, è un casino la talì. Nel tetto lì non puoi salire, quindi sei costretto a prendere per forza quella. Mia, sì, come mi carichetta nella casa, mi rabbiglio e mi rabbiaccio. E chi ce la contemo? Tra, era buonino in un altro gruppo. Kappa. Guarda, quell'antenna c'ha quel problema e basta, Basta eliminarli quella perda dove entra l'acqua e rende bene, capito? Andar bene meda, ma io te l'ho detto, se la vuoi te la do la canna da pesca, non c'è problema, te la vuoi piazzare, io non la sto usando e ce l'ho giù in campagna, e quella è fatta bene ed esce bene con l'antenna. Già lo so. So che se la vuoi, il problema è cazzo che non si può smontare, capito? È lunga quasi 8 metri, 7 metri e rotti. Ehi, lo so che non si può dimontare chi l'ha schiumata, no? Ma che è che la schiumata fa tu? È una persona l'ha fatta, capito? Qua. L'ha fatta questa persona, io la stavo piazzando in campagna, poi l'avevo piazzata, poi l'avevo tolta perché il vento era troppo forte e mi accollava troppo, quindi ci voleva il tubo più alto, e allora ci ho rimontato la boomerang, capito? E ce l'ho ferma in garage, messa in garage, buttata lì dentro. E anche la cosa, come si chiama, la boomerang, lo stesso, smontata lì. Ma non c'è schiuma, no, le antenne, ma stai scherzando? Assolutamente, quella deve essere scorrevole. Quello deve essere scorrevole e tirare su al momento che gli elementi li devi montare. Pure voi mettete la borsa in chiusura, l'elicottero, la bici o in macchina della Bond. Così cazzate attivo in moto nei buchi dolci. Quale? Si taccia per tutti, c'è macchina di fuori di Varezzi. L'unica è portarla su col camper, perché dentro il camper ci sta. Tanto ho capito, ma infatti portarla su col camper con un metro grande. Cazzo, c'è la buona macchina, tra la cappotta e facendo una marciapiede mi sento la canna in culo. Ti capisco, c'è il culo. Sono a Tarì, se la vuoi te la vuoi piazzare, io te l'ho detto, te la do, che non la sto usando. Ah, il Tarì ci ha iniziato a fare una cosa lunga 8 metri, cazzo. 8 metri, te la porto su col camper, cazzo, te la scarichi e te la metti lì, non è che te la porto su in macchina, no? Il camper te la puoi mettere, il camper è quante 6 metri, quante sporge poco, cazzo, non la puoi buono in macchina. Così di capito c'era niente, ma stai scherzando, come fai a portarla in macchina? Ma non esiste proprio. 6,90 m è il camper, quasi 7 metri. Va bene, metti appena appena la punta in fuori, appena appena la punta là, dietro, insomma, separi e va bene, ci metti il cartello d'ingombro e la puoi trasportare. Ma anche a portarla in macchina, a materia che tu. Anziché anche tu mette ragazzi in altra gamma la burra. Posso Natalisa, se la vuoi piazza, io non ho problemi, la porto su. No dai, già. A proposito, Cla, ma quanto è quello, il tubo che dove c'è attaccata l'antenna, l'ultimo tubo, da quanto sarà la sezione? Che me ne voglio prendere uno un po' più lungo per metterla più in alto. No, quello lì è piccolo, Natalie, c'era da 30, il tubo che ho tirato io, il piantone, quello era 50, quello puoi fare 50 come piantone, poi fai il 45 e il 40, allora va bene. Ma devo prendermene uno più lungo, quello lì lo tolgo via, quello dove c'è attaccata l'antenna, quel pezzettino di palo, e me ne prendo uno più lungo per metterla più in alto, se no manco il dipolo non posso piazzare. Ah, allora quello non mi ricordo quanto, mi pareva metro pollice, non so se la metto da tre quarti, forse la metto, forse la metto pollice, bisogna vederlo anche lì, se non me lo ricordo, però mi ricordo che era molto fine, forse la metto pollice, forse da mezzo, però il piatto metto qui era 50, quello è un bel grosso, lì puoi fare un bel lavoro, se ti compri un telescopico da 4 metri, no? Puoi fare il 50 lì, poi ci metti il 45 e il 40, capito? E il 40, ma puoi aggiungere anche il 35, va bene lo stesso, è sempre sempre un tre quarti, va bene, quindi non c'è problema, ma lì c'è da mezzo, ne hai bucati troppo fini. Ehi, e poi ondeggia troppo, già pongo un'antenna che ondeggia, infatti devo mettere un paio di tiranti, no, quando piazzo l'antenna, e bisogna architettarlo bene, prima bisogna parlarmi qui c'è l'antenna e da poi vi dico come si modifica il rubato. Ma non ti mettere in testa di mettere i tiranti nella game master che ci pacca, non devi mettere i tiranti con la game master che pesa una cazzata di tiranti, non ce ne vogliono altri assolutamente, non è quasi nulla, i tiranti vanno giù attaccati al muro come adesso, e sopra l'antenna non ci va niente. No, l'ultimo pezzo gli metto i tiranti dove è attaccata l'antenna, al tubo devo mettere i tiranti, no all'antenna. Al tubo sì, allora già va bene, ma l'antenna non pone nulla, che se no si spacca, capito? Si spacca. Vai Fra. E lì bisogna fare un bel lavoro qua. Io l'ho vista come piazzata, bisogna portarla giù, vulcanizzare bene quella che si piazza, tirarla più su se possibile, invece di tiranti sul tubo, non sull'antenna. E sul tubo vanno infatti i tiranti, non vanno sull'antenna. Se li metti sull'antenna la spacchi, non va bene. Ma infatti. E con quell'antenna se entra acqua ci avrai sempre problemi tu. C'è una tola a cambi. Quell'acqua sicuramente si è sdruito il foro dove c'è lo scarico. E allora? Non ce la fa a scaricare. Sono stazionare, di modo di bruciare l'apparecchio. Chi che l'ho omologato e a chi l'altro ne ha giocato. Non c'ho niente qua, c'ho il ricevitore e l'omologato. Va. Cioè, ma perché non esce con un'antenna di la macchina? A chi l'antenna di la macchina bisogna cercare la decisione per farla esci. Pure da roba come direi cudi. Non lo so se esce fuori dalla finestra senza la base magnetica, come fa? La base magnetica l'attacca al tubo dell'antenna che stai modulando, la piega la fai uscire verso fuori, non esce. Guarda lì, non c'è bisogno, una piastra di ferro la metti sull'avanzare e ci attacchi la base magnetica sopra, 20x20, 30x20. Esce per forza, così vuoi la campagna con l'antenna, con la base magnetica, con la sigma. Lo sai lì qual è bella l'antenna, senza essere ingombrante, senza essere quella che ci allucca, cazzo poco bomba c'è antenna, 2,75 m, proprio fatta apposta per lavorare nei davanzali, per lavorare a altezze piccole, a canonata che c'è antenna e valucca, una canonata, per arriva, qua, qua arriva 9 più 10, c'è un segnalone. C'è lui uguale, qua. Però in campagna uguale a quella io. Sì, ma l'abbiamo vista, fra, sono venuto da te. Ok, non va bene la premontata, non va bene. È troppo coperta, capito? Bisogna metterla più in alto sopra dove c'è la veranda, capito? Quasi sopra il tetto. Ausente in batti di Sant'Enna. Un be. E infatti quella ci può mettere lì, dove c'è la canna a fumi va bene. Esatto, te l'avevo già detto il giorno che eravamo lì in campagna, no? Capito? Te l'ho detto, fra quell'antenna lì va tolta e messa lì sopra, e ti metto un po' a punirla, un drappatello pulimo, il caro, il raggemo, però va messa lì, due staffettine e messa lì su, e sono sicuro che esce meglio di quella che c'hai. Quella lì la stavo usando sulla ringhiera dove l'hai vista tu piazzata e andava bene. Io stavo usando sempre quell'antenna lì, ecco. Ma giusto, se mi facevo io i chili i guai, se ci stavo io li guai, avrei messo dall'altra parte dove c'è la casetta degli attrezzi, ah, dietro lì me. Ho messo due staffe, avevo fatto un telescopico da 10 metri, te l'avevo fatto io, una manta, te l'avevo fatto io, i tiranti, però sai come ho messo i tiranti qua, per la manta, mi sono fatto fare dal fabbro la trafila con l'anello, i picchetti, a trafila da 12, messi nella, a terra e messi i tiranti, domani si muovi. Già l'ho visto come è stata piazzata, va benissimo, alla grande. Sì. Fraga, non c'è campagna, c'è spazio, hai problemi di tiranti, tiranti 8, 9 metri, 8 metri, capito? Un bel telescopico da 60 come c'ho io, piantone a 60, a finire a 40, poi, ma anche a 35, mi intermettato dentro la mantova e metti tre tiranti sopra, sotto la spirale, ok, e tre tiranti sotto, picchettati a terra e andiamo, chissà antenna, andiamo, ne vuoi andiamo, ne più lungo andiamo. Ma infatti, adesso quando darò 10 giorni per la patente, in campagna devo fare la stazione, ci metto tutte le antenne, che lì va bene, ce ne posso permetterle. E lì dall'altra parte fai uno scavretto, fai un plinto, metti la piazza tra un traliceto da una decina di metri, la voglia mettere antenne. Assolutamente. Io non lo faccio perché non ce l'hai visto, fra. Io è troppo brutto mettere nel giardino questo tralicio, queste cose, non metto niente. Proprio niente, non mi interessa proprio, capito? Ma non me ne frutti nulla. Ho messo le due e rimango così, non mi interessa. C'è anche una verticale, i miei 5 bande da poter piazzare, ma non piazzo niente, non me ne frutti nulla. Proprio perché sennò diventa brutta la casa esteticamente. I vicini magari vedono tutte queste antenne, chissà cosa pensano. No, non me ne frutti nulla, non me ne frutti nulla. Se non l'avrei fatto, io ne ho posto lo stesso, già lo sai, c'è un giardino di 40 metri, 30 metri, ma fa 30, no, non ce n'è, no, però non lo faccio, lo tengo per fare altre cose, lo spazio che ho, non va con i tralicci. Ma in definitiva, anche se non ne vale la candela, però io, ripeto, la voglio prendere, lo sai perché, quindi... Ho deciso di prenderla e la voglio pigliare la benedetta patente, poi metterò un'antenna V1, una verticale e basta, non è che è qualche dipolo 40-80 e boom. Io mi dipolo che c'avevo, quello bello che il materiale già lo conosco, e la cavo bene. C'è anche la 5 elementi, la picca fa il doppio 12 metri e la devo dura spesso, lui c'ha 50 mega, io non ne ho più 50 mega. Lo faccio solo 0,30 e boom, non ho più nulla. Non spendo più soldi, fra, c'ho altre cose da fare, voglio baciare la radio, basta così. Quello che ho, dove arrivo, e chi mi sente, che non si muove in cuffia. Vero, fatta lì. E te credo? Io devo scendere un dipolo almeno per i 40 e i 20. Qua a me non è che a me la frequenza mi piace in più, è sempre 40 metri, quindi molto probabilmente un dipolo full side me lo faccio fare da Marco, le compro il materiale e me lo faccio fare, proprio per i 40 metri, però allora in 40 metri, perché una frequenza che mi è sempre piaciuta, gli altri non mi interessa. E basta, faccio 40 voi, boh, finito. Per 10 metri se capita così, ma a livello locale posso usare tranquillamente la G-Ball, che posso usare anche in 20, anche in 15, non c'è problema. Con la correttore, va bene così, no? Non mi interessa, non per basta, ci metto un po' di antenne, no? Che oltre alla recinzione che Franco l'ha visto, oltre il giardino, io ho altre 4.000 metri di terreno, quindi non ha più problemi. Mi sa di blu di polo di 160. Ciao, anche mio padre vorrebbe che dire. Io mi faccio un dipolino per i 40. E con questo che non bisogna manco di tradice, mi affacciamo alla Toscana, già mi ha aggancio le dipoli. A Rubaro, Garimbuccio, quando che l'hanno portato da poco della Telecom, capito? Hanno messo il pallone con la racchetta Telecom, eravamo una decina di metri, 10-15 metri di altezza, capito? Quindi lo chiamo la Toscana, mi aggancio in chivi, porto una gravata, mi aggancio in chivi con la garrucola e sono tutti di dipoli. Non c'è problema, basta mettere il salicindi come ti può dire. Sì, con la garrucca allora, salicindi allora. Cosa va benissimo alla grande, non ho problemi, c'ho spazio all'infinito qua, guarda. Ma non ho voglia di fare niente, no, non mi interessa proprio, voglio rimanere così come sono. Giusto per due chiacchiere con gli amici e basta. Sempre a livello locale, però. Tu fra lo stesso in campagna c'è la possibilità di fare tutto quello che vuoi, se ne hai voglia si fa, e se no ti muovono di poco molto in banda e si arrivi. Ma infatti, farò così infatti, in definitiva, sì. Beh, non è che posso buttarci, metterci direttive, cacchi vari, di polo 40-80, una antenna VU e una verticale, basta. Ah, non dorme più, devi avere sempre il portafoglio appresso, perché così devi avere la dimestichezza, la voglia, la bravura di mettertene a posto, come per esempio fa Fabrizio, e abbassati da su, si rompe una canna, se la costruisce, si crea un problema, se lo fa lui, cioè capito, non siamo più ragazzini, perlomeno io non ce la faccio a fare certe cose, anche perché non sono capace e non sono all'altezza, lo dico apertamente, quindi devi sempre chiamare, fartele mettere a posto, no, lascia perdere, un pezzo di filo, un pregiudizio, che mi intende che no, ci buone di guffi e se no anda all'amplifon. Sì, ma infatti, come rimettere il polo, ma stai dicendo tu, pochi soldi, anche se ci ha reso lo stesso, rende quando, non renderà magari come l'antenna, però gli va bene lo stesso, capito? Vai Natale. Sì, capodà, rimango in ascolto, io ho troppe stazionari e poi sto cenando. Ah, dice di problema del marchio. L'Europa l'ho fatta tutta, non ce n'è problemi, anche Sud America ho fatto quel di polo fra tutti i con quell'altezza ce l'ho messi bene, quel di polo che ho dato a Roberto una canonata, quello è un di polo ad hoc, fatto ad hoc da gente che ne capisce, l'ho fatto da CP turno, quello è un bel di polo, infatti il fatto che fa 20, 15 e 40. Quindi c'hai già tre bande, poi agli anelli che ci sono, perché quello è ad anelli direttamente diretto, senza ballo ma senza nuda, a tanto bomba. Gli attacchi di polo gli 80 che gliel'ho già dato, c'hai già quattro bande, cosa vuoi? I 10 te li fai con la verticale e si arrivi alla grande, non c'è problema. Qual era quello, la scaletta? Quello lì gli hai dato? No, la scaletta no, quello era la G5 Revura con la Tavannino. Quello ragno, uguale a quello che c'è a Marco Scorpione, da un tradice all'altro, uguale a quello, lui c'è la full side, ce l'ho per i 40, ma tanto bomba, ma pompa però, e se no non tiene potenza, ma stai scherzando, bellissimo di polo, fatto veramente bene, c'ha i tubi verticali, banda per banda. Sì, già l'ho visto, già, ce l'ha piattato su, l'ho visto uguale. Uguale a quello è full side per i 40, invece a me mi aveva dato l'altro 15-20 e 40 metri, ma ti dico che poi io, sempre come mi aveva detto lui, avevo agganciato il dipolo di 80 e c'avevo 80, 40, 15 e 20, ma ti dico che 80 metri facevo dei bellissimi QSO con il sud di Sardegna alla grande, ma a segnaloni, baro con 100 watt, capito? Già ti diverti lo stesso, no? Per le direttive, a parte lo spazio che ci vuole, ma qui ci vuole un sacco di manutenzione, fra. E credimi, devi essere capace, perché se non sei capace e fai danno, devi avere un buttafoglio a rotta di collo. Lo so, ci vogliono un pacco di soldini per fare quella roba lì. Anche per fare quell'attività ci vogliono un casino di soldi, se vuoi fare una cosa. Se vuoi fare quel tipo di attività e vuoi delle cose, perché poi devi cambiare le radio, vai a cercare praticamente le radio più carine, più belle, dai. Ah, carine è una parola così, devi avere radio che ti consentano di fare le cose che devi fare, ma soprattutto la radio non è importante, la radio non sono importanti le antenne, perché se non l'antenna non fai nulla, capito? Cioè, se ti accontenti, comincia sempre a accontentarti, io va bene, ma quando tu devi mettere al passo degli altri, io ho speso 2700 euro mi fa per farmi l'impianto, è tutto piccato a doppio, antenne buone, antenne costose, che mi aveva consigliato Marco, perché c'erano dei materiali molto buoni, martelli, capito? C'erano tre elementi, 10, 15, 20, c'erano l'antenna, ce l'ho ancora, quella è a casa Carbonazzi, la 5, 5 elementi per i 6 metri, sempre della Martelli, il rotore G450 della Iaesio, tutto l'impianto, commutatore elettronico della Meritron 5 bande, con un'unica calata, quindi tutti i cavi arrivavano su, cavi piccoli da 5-6 metri e poi la calata unica. Ho regalato tutto a Roberto, ho dato tutto a Roberto, Roberto è pronto per farci un impianto favoloso, c'ha tutto, non le manca niente. E vabbè, ma Roberto c'ha anche il posto lì per poterlo fare, capito? Roberto c'ha il posto la pila, Roberto. Beh, se devi fare con l'attività ci vuole anche la pila. Io non spendo più neanche una lira, guarda, ti giuro, mi prendo questa patente giusto per prendermi la patente e poi si vedrà in seguito cosa fare, però ti giuro che mi costruisco tutta di puri, vado, perché i soldi in antenna non la spendo più. No, non è che me la metto per i soldi, è che io non faccio attività, non è un costo troppo elevato e poi rimane lì buttato, capito? Non serve a niente, fra. E poi a me i soldi mi servono per fare altre cose, devo finirmi un sacco di cose, mi interessa più la casa che le antenne, capito? Non perché non sia finita, già l'hai vista, ma c'è la finire dietro, c'è la finire con la frattanza, devo fare la strada, asfaltare la strada, cioè sono un sacco di cose da fare, e sembra così, ma ci vogliono quattrini. Cioè, se devi investire in una bella casa, li investi, se tu devi bisciare a lampadine di 9 antenne, allora è diverso, a me non mi interessa più, io quello che ho rimane così e non ci butto manco una lira. Una filare, qualcosa di genere per divertimento, per stare così in compagnia, ma non pensare di rampiare di navi, stai lampato, ma gli ho fatto un gruppo, vediamo chi si antenne, il gatto travagliente, di e notti, facendomi mettere in turno per guadagnare qualcosa in più, per non toccare i soldi a casa, la buia, fino a nevrato di Sant'Enni, regalati, lascia aperta. Lo so, anche io ho fatto delle cazzate, vabbè, e che ci vuoi fare, purtroppo, però adesso vedi, tornando indietro non avrei fatte, come tutte le cose. Come me, infatti, io sono tornato indietro, sono stato un bel po' di anni che non facevo attività, io sto entrando adesso, a me in VNU, non ero più di 5 anni che non accendevo le VNU. Ho messo l'antenna piccolina, una X300, sono a fianco alla mantova, 2 metri da terra, 2 metri, proprio 2 metri da terra, non so se l'hai vista, 2 metri da terra, giusto per fare 2 chiacchiere sui ponti, per fare 2 chiacchiere in diretta, per il resto non mi interessa, ma non già me ne affrutti. C'ho altri cacchi per il sedere, detto in parole povere, che stare a pressare il radio, me. Te lo dico, papà, un sacco di cose che devo fare, non voglio dimissare il radio ne ho, e va bene così. Ma infatti, è così, e si conferma, e prima le cose, prima il dovere dice quello e poi il piacere, in nome di tutte le cose, e anche in campagna c'è da fare lo stesso, io solo in questo tempo non posso fare nulla, sempre vendevo, acqua è tutto un fango, tutto un casino, cosa non puoi fare niente, tutto lì. Perciò fra, facevo una stanza piena di radio, di Augeaci, è un parco a tema bello, bello e fatto bene, veramente fatto bene, ma non l'ho mai usato, non l'ho mai usato a dire una volta nulla, io da quando ho fatto quelle antenne, boom, non ho più trasmesso, proprio la sfiga per cose mie personali, però insomma, mi è dispiaciuto tantissimo, per carità, alla fine mi sono rotto le palle, ne ho tolto tutto, me le sono vendute, capito, ho regalato una decina di radio basi col cuore, veramente le regalate a una persona che ci tenevo tantissimo e sono contentissimo che siano, se no cosa ne facevo, dove me le mettevo, non le usi, sono lì, ho venduto 4 ATF, 2 basi VU, ne ho venduto poco di cose, ma cosa ne fai, mi sono tenuto le cose essenziali, e già ne ho 4 d'ora di HF, 4, capito? 4 primo, anzi 5, ne ho 4 primo di una Yaesu, capito? Più c'ho il Galaxy, c'ho lo Standard, c'ho i 2 VU che sono uno, sono tutte e due sempre la Kenwood, poi lasciamo quello che c'è ancora dentro gli armadi, ma è un pieno di roba, ma fa cosa? Ma fa la collezione di cosa? Sì, ma è definitivo, hai fatto bene, intanto averne 100 e ne usi sempre 2 o 3, capito? Il problema è sempre quello, non servono a niente. Adesso io ne ho un casino qua lo stesso e uso sempre la stessa radio. Il problema è quello, sì, li accendo ogni tanto, ma di solito accendo sempre questa, farla scaldare, a provarla ogni tanto, qualche volta accendo le altre, ma però d'altronde intanto siamo, diciamo, sempre su 10, quindi a cosa serve? Spenderci altri soldi per che cosa? Ah, nulla serve fra, non serve a niente, ve lo dico con molta sincerità, non serve a niente. E poi dice uno che ne ha buttato, Dio, non mi sono pentito di quello che ho fatto, per carità, ma ho speso un patrimonio in radio, un patrimonio, non certo a, insomma, non sono mai stato al passo di nessuno, per carità, perché non me lo potevo permettere, ma non mi sono fatto mai mancare niente, capito? E adesso, che grazie a Dio sto molto, molto meglio di prima, io soldi non ce ne butto più sopra la radio, mi tengo quello che ho e sono contento di quello che ho, non mi interessa niente di quello che fanno gli altri, fra la verità, basta così. Ma infatti anche io la penso così come la pensi tu, è inutile buttare i soldi perché cosa, poi c'è, è una cosa che c'hai di nuovo a comprarne altre, anche che non serve a niente, intanto con la radio fai tutto, sì a prescindere, però se non ti piace averne qualcuno in più va bene. Però io sono qua, fra, non fa, io rispetto tantissimo e sottolineo tantissimo chi fa attività a quei livelli, ad altri livelli, eccetera, rispetto tantissimo perché sono grandi anche sacrifici, capito, quando uno fa certe cose, però io non sono mai stato all'altezza, non ho mai avuto quella passione, però la radio mi piace, se non ce l'ho bisognerebbe inventarla e quindi faccio radio così, un po' in 27, qualche passaggio a salutare un amico in HF, qualche passaggio in V, in U, ma giusto così, perché lo fai, basta, però non farò mai più quello che ho fatto nei tempi passati, perché ci vogliono un bel soldi e in questo momento io devo pensare a sistemarmi bene, ma bene, come dico io, tra dove c'è, visto dove non c'è il tratto, praticamente quello è già pronto, io prima di restare devo mettere la piscina, io fa la piscina, quindi penso che ci sto pensando alla radio, perché quest'estate abbiamo passato un'estate molto molto calda, sai, al mare si va poco e quindi mi approfitto e mi diverto a casa mia, ma cosa mi affutti l'antenna delle radio. Infatti, una bella piscina con motore, tutto quanto, le ho viste quelle piscine, sono molto carine, molto belle, c'era un amico piazzato in campagna e si diverte alla grande di estate. quello che c'è di fronte alla campagna, già lo sai dove, ce l'abbia fatta con i motori, tutto, bella grande come piscina, e di estate se lo utilizzano lì, capito, mica vanno al mare. Sta scherzando, non ha visto il giardino fra, già, ma sei venuto tu qua, no? Sei uno di quelli che è già entrato a casa mia. Sei una sono, l'hai vista, quindi no, non c'è un problema. Quello spazio lì io lo uso per mettere quella grande però, quella da 10 metri lunga per 6 larga, quanto è 4 larga. Metto quella, ma ha fatto bene, faccio tutto lì dove non c'è il prato, perché l'ho lasciato apposta, lì faccio tutto il prato, quello sintetico, i motori vanno nel gabbiotto sotto il Calverio, i tubi sono già pronti e faccio una cosa fatta bene. Ci vuole un po' di soldi, non è che sono la piscina a fare questi più di 1.000 euro, con i motori, tutto l'impianto eccetera, che mi gestisco io perché ci ho lavorato, quindi so come fare e mi diverto così fra, poi pensare di va, capito? E basta, devo ancora mettere il motore al cancello, già lo sai, l'impianto di illuminazione è già finito, tutte le altre cose sono già fatte, però c'è un sacco di cose che devi finire, sempre per abbellire la casa, e non è che poi le dinà li consumi, li consumi a fare queste cose, no, piazzante, non ha fatto un cazzo l'antenna mai. Non è fatti. Adesso io amico l'apparecchio l'ho venduto. 230 euro gli ho dato, poi ha voluto quell'alimentatore da 5 ampere, gli ho venduto anche quello, l'ho fatto dare 260 euro e gli ho dato, cosa me ne va di ora? Tanto c'è anche il 68, a cosa mi serve? Non me ne posso nulla. Ma infatti, quando c'è tutto già tre fai. Io ho 3K, uno di verso all'altro, ho il commutatore a 4, ogni tanto poco fa ho fatto andare 140, adesso faccio andare 430, poi faccio andare l'altro, capito? Una è sempre spenta, non c'è manco antenna, il 757, lui è Bedu, quello che abbiamo messo la maniglia. E l'altra commutazione a 4 la uso per il Galaxy, perché anche quello ho usato ogni tanto, boh, basta, finito. Poi i VU hanno un'antenna diretta, no? Col duplexer, quindi no, non ce n'è problema, però per dirti, cioè tante cose devi stare attento a come le fai, a chi si imbaglia da voi, finire di là, eccetera, devo fare quello, l'ho visto a casa di un amico, devo fare la veranda fra le tettoie, quelle dove c'è il, dove si arrostisce, c'è un sacco di cose da finire, cazzo, se non hai di là come ti vuoi a farli? All'antenna devi andi e paghi quarantenni. Ma in definitiva è così qua, piano piano già si sistemano le cose, oggi faccio una cosa, domani ne faccio un'altra, come ho fatto io, hai visto a casa lo stesso, sta sistemata, impianti elettrici, hai visto che carina che è? Beh, molto, molto meglio di prima, senza ombra di dubbio, molto meglio di prima, anche se prima non era male, ma adesso è molto più bella, e qua già hai visto com'è, non è che abito una pappaia, grazie a Dio, una bellissima casa, bella, finita, tutto, però ci sono un sacco di cose a fare fuori, che mi piace avere, capito, come ci hanno gli altri, però se di là i prezzi incazzabili, come ti avevo detto prima, come vedi, mi potevo cambiare la macchina quest'anno, fare un sacco di cose, comprarmi una moto nuova, non ho speso manco una lira, la macchina ho fatta mettere a posto, riverniciata, il motore è ancora buono, ho fatto tutto l'avanfreno, tutto, ho messo quattro gomme nuove, ho speso 1.200-1.300 euro, ho c'ho la macchina a posto, perché la giugia va, e quindi 20.000 euro, che andrò a Brescia, 20.000 euro me li posso gestire come cazzo voglio. Infatti, che gomme hai messo sotto? Ho dovuto mettere quelle, come si dice, quelle non quattro stagioni di altre, le termiche, perché qua non sta molto a ghiacciare, l'aria esce presto la mattina e quindi voglio essere tranquillo, capito? E anche io ho come termiche sotto. Adesso gli ho messo due dietro, nuove, quelle davanti sono mezzo consumate, me devo mettere altre due davanti e sono a posto. No, io sono andato a Marcello lì al pneumatico e vado sempre a lui. Ho detto mettimi quattro gomme nuove, ma gli ho preso 430 euro, 420 euro, capito? Poi il mese prima, perché non ho fatto tutto assieme per non fermare macchina il mese prima, Ilaria aveva qualche giorno che si poteva prendere, gliel'ho lasciata un giorno praticamente, ma è andata l'indomani e mi ha messo i braccetti nuovi, superiori e inferiori, due cuscinetti, ha cambiato le cuffie, gli ammortizzatori anteriori, tutta la messa a punto, ma che va bene, la gammina è a posto, è perfetta, perché l'ho cambiata, anzi c'è tenuto in pelle quella macchina nuova, c'ha tutti gli occhi, se non ce l'hai vista, è una bestia ancora, se non c'è tutti quanti cavalli, perché l'ho cambiata, ma la tengo, quando non cammina più, ne facciamo a pavoni e la rottiamo, e allora se me la compro nuova, ma adesso i soldi li faccio, li metto sulla casa, non me ne fotti manco quale quale la macchina, è la cosa con le antenne. Allora, oggi siamo saliti a Capannone da Pinuccio, che se doveva prendere la roba, e c'era una Giulietta lì, ne voleva anche troppo, ho detto fammela provare questa macchina, è una bella macchina, niente da dire, ma 8.000 euro. Ah, vai, ma tu babbo i capelli alla Giulietta, le faccio babbo i capelli io alla Giulietta, voglio avere i gambe nella mia, voglio una bestia con la macchina, ancora c'è un motore favoloso. Va bene, fra, va bene, no, non ne butto soldi io. Avevo intenzione, né, di prendermi una macchinetta piccolina per me, per spostarmi, però poi la finita, ma aspetto, al prossimo anno vediamo, prima mi finisco tutte le cose, se no da fare qua, esternamente, quando ho finito, due volte giro i conti, se posso spenderla qualcosa, me la prendo, 2, 3, 4.000 euro, una macchinetta usata piccolina, una Panda, un appunto, 1.000 multijet, qualcosa del genere, per spostarmi, insomma. E va bene così, ma va, manco balle balle, devo finire tutte queste cose, devo fare un sacco di cose che belle, che servono, che sono utili e abbellisce molto anche la casa, fra. Non vedi con le tettoie, ho fatto fare il progetto da un amico impresario, esce uno spettacolo, tutte e due, sia a destra che a sinistra, con lo scarico a Mantovana, belle, belle, belle, belle, finte tegole, molto bello. No, ma già è carino, una bella casa la tua, complimenti perché è bella veramente, niente da dire. Non ti ricordi dove facevo io la cucina prima, là, che era piccolino, ti potevi girare, hai visto adesso me l'ho fatta, bella grande, spaziosa, di lusso, alla grande proprio. Io me lo ricordo, che si cucinava lì e si mangiava nel salone, vabbè la mia già l'hai vista a Francia, troppo spesso, quindi c'è l'angolo cottura e poi è tutto aperto, è una bella, bella, bella, bella. Però ripeto, eternamente non c'è niente da fare, hai visto il bagno? Anche la doccia, non hai mai visto due docce fatte così? No, docce così no. Hai visto, temperatura, tutta girata, rotonda, temperatura, barile, uno blocco, dice, quella era l'impresario, muratore l'ha voluta fare, è mosaico, bellissimo. E ancora lì ci vuole lo scorrevole in vetro, capito, che non l'ho trovato qua a Sassari, però mi hanno detto che c'è a Cagliari, alla Record Plast di Cagliari, ci sono quelli scorrevoli a cerchio, capito? E quel bagno, sai quanto è costato quel bagno? Un patrimonio, ma c'è una doccia da 120 però. Me lo posso immaginare, un pacco di soldi. Ecco, da Bricom è provato sulla truffa, non ce l'hai lì? No, scorrevole che piega così no, fra. Che piega così no, è curva, capito? È rotonda, è un semicerchio, non c'è. Mi hanno detto che andava bene una, ho visto le guide, ma non flettono, si spezza il plexiglass, capito? Quindi mi hanno detto proprio che una Cagliari, sai che tipo di tende? A Macomer, al centro infissi di Macomer, hanno aperto anche un'esposizione di bagni e ci sono questi scorrevoli, queste cose, così, capito? Devo andare, appena c'è tempo ci faccio un salto con Mario, con il mio genero, perché adesso non ci vado. parlo con lui, andiamo a vedere se c'è, me lo prendo direttamente, me la porto giù, poi chiamo il muratore, me la faccio piazzare, poi ci vanno le guide, le tascellate, tutto è fatto un particolare, capito? E basta, è finito, non c'ho altro da fare evidentemente, fra proprio stronzate, ma fuori c'è da fare un sacco di cosette che abbelliscono e poi mi servono, perché non sfruttarle, c'ho quei due lati a destra e a sinistra che vanno chiuse lo stesso, capito? Lo puoi sfruttare d'estate, vabbè, la macchina rimane fuori perché adesso c'è il prato, quando sono arrivato la mettevo dentro la macchina, ma adesso c'è il prato non la metto più in macchina dentro, la lascio vicino al cancello. Infatti, ma già è bella così, a me piace un bel come casa, bella, spaziosa, poi indipendente, non ti rompe le palle nessuno, lì fai quello che vuoi, capito? Non è come in città col condominio non puoi fare niente, già lo sai, no? Quindi ci sei passato, non c'è bisogno che te lo dica, e se andiamo a prendere una sigaretta al volo, va? Io lo so, 38 anni ho abitato in condominio, cos'è, alla fine anche se stavo bene, però il mio sogno era questo, ci sono riuscito, piano piano, un sacrifici, allora si Dio di raga, abbiamo tutto, se no, pazienza, si arrangerà mia figlia, cosa vuoi ti dica? Tappa di Roggero, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare nel canale 10, tutti morti siete stasera, ho freddo, ci avete. No, siamo tutti sopra la moto, sopra la pedivella, sotto, io stavo cenando Clara, avevo fame, e così sono a posto, ho trovato un toast e un po' di frutta, boh. Oggi lui ha portato l'aria a due, ma passò i grandi di sushi, e sugar, non mi posso vedere la voce. Dopo sushi, un bel brutto, fresco, e va a mangiare la playa, è uscita alle tre, ho fatto la stamattina, se alle tre è continuata, se aveva venduto, aiuto, a casa. E stamattina c'era un compleanno a pranzo, avevano mangiato un sacco di roba, l'hanno fatta, ma perché vi lascio il bene di sushi, ma bedine. Bello, poi sono avanzate un paio di bottiglie di brutto, di tantino, già in frigo, oh yeah! Non mi piace il sushi, la pucci, la carità, no? Non ti piace, là, sentite la Luca, non mi piace il sushi, sono la ridere, yeah yeah, con quella, come si chiama quell'affare? La suia, mamma mia, come sto? Non mi piace, l'ho assaggiato, l'ho anche sputato, non fa per me. Per me possono anche fallire chi fa il sushi. Non mi piace il brutto, meglio va, preferisco una pizza, ci credo. Io non che ci vado matto, però cioè, buono. Prima non lo mangiavo, poi iniziato a assaggiarlo, cioè buono. E sono quei gamberoni fritti, mi cosa dite? Vabbè, già c'ho altro io anche, però non mi mangio viscio. Però brutto non ti piace il brutto? No, nemmeno. Io preferisco la kenta, oppure sfumantino dolce, bracchetto, così, dai. No, non mi piace lo sfumante brutto. Ma qua... No. Posso intervenire? Che la kenta è un brutto, Luca, è un fermentino brutto. Sì, però il brutto, quello che c'è scritto brutto non mi piace. L'ho assaggiato, la kenta è buono, la fritta. Invece quello lì, brutto, che c'è scritto la bottiglia, tipo adesso, adesso non mi ricordo il nome. C'è quello dolce, quello brutto, non mi piace, mi fa mal di testa. Mettere la matrice lo va, io. Ti fa male di testa, vabbè. Dipende quanto ne bevi, dipende dalle marche, dipende da tutto, capito? Mi piace il torbato. Manco il torbato ti piace, Cioffa, il torbato ti piace. Torbato ci sei, come mettilo di gallura, no, neanche qua. A me piacciono gli spumanti dolci. Forse è l'unico la kenta che riesco a bere, la fritta, no, quando capita che magari ci andiamo marina, adesso, dopo Natale, così ad Alghero, ci fermiamo, ma anche anno nuovo, in qualche bar ci beviamo un paio, la kenta sì, ci scende, però gli altri sfumanti no. Perché c'è in bocca dolce, tu capi, ti piace la roba dolce, Luca? Non mi fa, a gusti, vedi, c'è a chi piace il sushi, a chi no, non mi piace il più fucci, per carità. Poi il pesce crudo, Ocla, un paio di costavolino, ti la metti. un paio di casce, con i vinili, bravo, te la metti. Aspetta, la vuoi 12 minuti, mamma di tutti. Per questo marito è finito, ragazzi, lo diventando di babba mia. Franco di Sorso. Oi, non è compreso Luca, le biasi. Ma che te giuro le biasi? Lo brutto non le biasi, e metà pure la lavatrice. Lo lavi e poi è pulito, non è pulito, è pulito. Comunque ciao Claudio, ciao Franco e ciao anche a te Luca. Avanti Franco, buonasera. Ciao Franco di Sorso, buonasera, spero che mi ascolti, sì. Buonasera, Rizzo. Già mi senti allora. Aspetta un secondo che c'ho il caffè nel fuoco, riprendi il classico. Ehi, va bene che va bene. Comunque fra i vini sono tutti buona verità. Io non... quando li porto la figlia, quelli pesanti, rossi, canonau, che si... Cagnolari, che si mamma mia, Monica, quelli lì, insomma, le Carignano, yeah, venne, anche perché lei è amante dei vini, poi insomma con lavoro per farli conoscere. Ma a me piace il brut, anche mangiando la pizza preferisco più un bel brut che un bicchiere di birra, no? Non lo so, vabbè. E poi il brut in lugar fare, un prosecco è favoloso. Caro Lugariello, vabbè, a me mi piace Ciuccia, quindi mangio lo sushi, tu lo sushi e sushio io. Sushia. Ma è normale che noi abbiamo pagato due melis che trattolano 9 euro. Due melis 9 euro. Ma da chi? Cioè noi li vendiamo a 2,50. La differenza, non vero, se siamo abusati, ma al tempo di cosa adesso abbiamo mangiato una pizza, io ci beviamo una cosettina qua, lì in Piazza Tola dove c'è di fronte alla piazza, non mi ricordo come si chiama, è un bar, ristorante, mi pare, un pizzeria, non so, due melis, 9 euro. Veneri a Tola, c'è BNO. C'è BNO, ha detto, c'è quello che ballacche, ma 4,50 un bel se non si può vendere, io è un furto totale. Allora mi ha fatto pagare il tavolino. Ci vuoi dare fatto pagare il tavolino, può essere 50 centesimi di servizio. Ma sembra strano, boh, strano, cioè se te li prendi l'aria io non li comprendo, non lo se non ti ricordi il nome puoi indagare per quanto stanno andando il bilis. Ma tutti da 3 a 3,50, io lavoro in Piazza, cioè in Piazza d'Italia lì, non è in Piazza Tola. Infatti lì è più signorile, diciamo, il posto, no? Diciamo così. Allora guarda, ti dico subito qual è, c'è la coltelleria, ok, sulla destra, e poi ti prendi la via per scendere in via la Marmora, è quello dopo la coltelleria, quella pizzeria lì, e c'è fuori la pedana. Sì. Già capito l'aria. Anche lei li frequenta quando è libera e si lì, capito? No. No. Piazza Tola non ti giri mai. No, non ti giri mai impallinata in Piazza Tola. Vai Franco! Beh, da fine abbiamo fatto. Tavolino l'ha fatto sbagliare. Vabbè. Sì, è caro, caro. Da tutti i punti però è così, dai. Secondo dove vai, anzi, non hai pagato un bomba con me, anche secondo gli anni ti vado a pagare l'entrata a burro. Allora, secondo me, sono 2,50 ogni belis, fa 5 euro, più 4 euro di coperto, cioè di coperto di tavolino, 9 euro. Insomma ci ho fatto pagare 2 euro a testa di tavolino, cioè per il tavolino. No, non esiste. Ma solo il ginetto fa pagare il servizio al tavolo, che è 50 centesimi. E all'epoca il Pepi lo faceva pagare 50 centesimi, basta. Cioè, il cameriere. Lui era un tavolino. Cosa ne so? Infatti siamo rubati i gusti, se lo pagavamo 5 euro. Fallo 6 euro, 3, vabbè ci sta, anche una serata lo paghi 3,50. A me per esempio è costato una volta, insomma questi miei amici che suonano, sicuramente tua figlia lo riconosce, e Santa Fe, che suonano in spagnolo, Cristiano, Pina e Virgilio, vabbè. È capitato lì in piazza, no, come si chiama lì? No, Piazza Azzurra, no. Dove c'è il...